Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, il programma che nella sua, diciamo, dimensione piccola ha un'ossessione, che è quella di apprezzare il bello di una vita un po' meno affollata, un po' più lenta. È un'ambizione, spesso, me compresa, è un'ambizione che viene frustrata perché poi invece facciamo sempre tante cose, però ci piace ogni domenica ricordarlo prima di tutto a noi stessi. Il multitasking è una fregatura. E ve lo ricorda anche un neuroscienziato dell'MIT, Earl Miller, fa pure male al cervello. Ma proprio perché in tutto questo anno e anche nell'anno, sì, in tutto il 2016, domenica dopo domenica, abbiamo cercato di portare via pezzetto a pezzetto la base su cui si reggeva il fascino del multitasking. Proprio ora che siamo a ridosso del Natale e delle innumerevoli fonti di stress che questo comporta, sia che si voglia tenere comunque viva la tradizione del regalo natalizio, sia perché è l'unico forse momento dell'anno in cui ci si ritrova tutti con i parenti, con gli amici. Ecco, in previsione di quella che è un momento bello, ma è anche una fonte di stress e di sovrapposizione di impegni fantastica, abbiamo deciso che questa domenica parliamo solo di questo. Parliamo di multitasking. Pensate, c'è chi ha misurato il picco dello stress prenatalizio e pare coincida con le ore 14:33 del 24 dicembre, perché il 24 dicembre di solito non c'è il pranzo di Natale, ma c'è la preparazione di quello che sarà il pranzo della sera. E il momento in cui si fanno gli ultimi acquisti, quelli last minute, si raggiungono spesso luoghi diversi perché appunto il 24 sera si sta con i parenti. E l'inchiesta britannica che l'ha messo in luce, che ha identificato questo momento, le 14:33 del 24 dicembre, si è particolarmente concentrata sul rapporto delle donne con il Natale. Lo stress come si manifesta? Lo sappiamo tutti, con un, diciamo, un crescendo di irritazione. E secondo l'American Psychological Association, mentre il 41% degli uomini durante le feste si rilassa, qualcuno dice si deprime, solo il 25% delle donne dice di riuscire a rilassarsi. Sarà così? Sarà davvero così? Sospetto di sì. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Certamente con gli agenti provocatori di questa domenica ci siamo rilassati tanto, tantissimo al cinema, e vediamo cosa pensano loro delle feste, che è anche un loro tradizionale momento di grande visibilità. Benvenuti, buona domenica ad Aldo, Giovanni e Giacomo. Presi per agenti provocatori. Sì, siete i nostri agenti provocatori. Noi abbiamo tutte le settimane uno, ma in questo caso tre, ben tre uomini che provocano su quelli che sono i luoghi comuni di quali spesso noi donne facciamo abuso. Nelle feste di Natale l'unico momento di tregua, no? È quando di solito la moglie, mamma dice: bene, allora adesso dopo il pranzo di Natale andiamo al cinema. Certo. Per questo dico che voi ci avete regalato anche alle donne spesso il momento di pace nello stress dell'organizzare gli equilibri. Posso dire una cosa, Maria? Perché invece a casa mia, sono Giacomo. Ciao Giacomo. Ciao, buongiorno a tutti. A casa mia di solito la donna dice adesso si sparecchia e in genere l'uomo dice andiamo al cinema, sparecchiamo dopo. Dopo, però, sì. No, l'astuzia sta nel farlo prima. Prima il dovere si sparecchia e poi il piacere. E anche questo Natale voi ci farete sicuramente il grande dono di darci un'alternativa al litigio post-prandiale del Natale a casa, portando tutti al cinema. E noi ci veniamo quindi volentieri. Al cinema, quindi non apparecchiate neanche. Questa è la questo è il passo successivo. Questo è il passo, come dire, audacemente brillante del prossimo Natale, quando voi organizzerete un catering nei cinema italiani. Esatto. E sarà un grande successo. È un grande cambiamento. È un grande successo. Per ora veniamo invece soltanto a vedere Fuga da Reuma Park, che lo dico a chi non l'abbia ancora visto e chi voglia andarlo a vedere, è un film dedicato a tre vecchietti abbandonati al loro destino in una specie di surreale ospizio che era prima un Luna Park. Ora, il tema, ve lo dico, no? Riguarda tanti, tanti di noi con genitori anziani, o che invece possono essere loro, no? Gli anziani, identificarsi addirittura. Ed è un tema delicatissimo in un paese molto anziano. Il tema delle feste all'inizio volevamo farlo che mi abbandonava in autostrada col collare, poi abbiamo deciso una cosa un po' più soft. Ma come ve la siete cavata? Perché il tema poteva essere quello del Natale e dell'anziano abbandonato, poteva essere devastante. Siccome poi invece noi al cinema ci veniamo per ridere e sorridere con voi, senza anticipare troppo della trama del film, ma qual è stata l'idea che vi ha consentito di trattare un tema serissimo e di volgerlo poi alla fine in un senso anche scintillante come il Natale deve essere? Beh, un po' a modo nostro, con l'ironia, perché siamo partiti da una condizione che potrebbe essere, come hai detto tu, tragica, quella del Natale e un anziano abbandonato in un ospizio, ma siccome anche l'anziano abbandonato eventualmente è indomito dentro, ha voglia di libertà, no? E quindi la fortuna, il miracolo è stato che ci ritroviamo e quindi in tutti e tre scatta, nonostante gli acciacchi eccetera, il desiderio di fuggire da quel luogo o comunque di darsi una settimana, una giornata di gioiosa spensieratezza, ed è quello che tentiamo di fare. Di proiezione, no? Verso il futuro e l'anno che verrà, che va affrontato con ottimismo. Il prossimo anno, quando dopo l'uscita di questo film, un sacco di vecchietti scapperanno. Oppure, lasciatemi dire, un sacco di vecchietti saranno portati a casa dai loro familiari per non lasciarli lì. Questo speriamo che scateni un sacco di sensi di colpa, anche se chiaramente è un film comico, e si riportino a casa. Comico, sì, ma un filo maschilista, perché la temibile infermiera russa Lyudmila è, diciamo, l'aguzzina di tutto il film. Proprio una donna avete scelto, ma come ci vedete? Dai, ci vedete proprio cattive. Vi vediamo così, vi vediamo aguzzine. Cattivissime. Sì, bisogna stare attenti a voi donne. Che tra l'altro l'attrice Silvana Fallisi è la moglie di Aldo, quindi è la moglie di Aldo, sì, due volte moglie, perché ci sono sposati due volte. Ecco, è la badante, la badante. In questo caso diventa la badante, però in realtà lei si trasforma durante il film, cioè lei ci insegue e poi si trasforma, perché è innamorata incredibilmente di uno di noi tre e toglie il suo abito da carogna e diventa di noi tre, quella amabile donna. Io. Che Sì, perché in uno di noi tre, che non sono io, la ragazza, la stupenda ragazza, ha visto la giovinezza negli occhi di un uomo. Fascino, apparentemente è vecchio, ma dentro sprigiona una giovinezza inaudita, ma una voglia di vivere incontenibile. Ecco, come sarà in realtà il Natale di voi tre? Ce lo raccontate? Voi che fate a Natale? Fate il pranzo di famiglia oppure scappate verso lì di lontani? No, io pranzo di famiglia. Io chi? Perché è il radio. Io sono Giacomo, ecco. Pensavo che la mia voce fosse inconfondibile, però mi qualifico, è la voce più bassa del trio, o forse la più alta, non lo so. E io faccio in famiglia, assolutamente, se è una tradizione che si protrarrà per sempre, penso. E voi altri due? No, io sono stato di Giovanni, dopo Giacomo sono stato io. Però, scusa, la farò in famiglia, assolutamente. Il tema dello stress natalizio vi riguarda oppure siete atarassici, state sul divano e che ci pensino gli altri? Natalizio lo subiamo tutte le volte che esce un qualcosa, perché noi usciamo sempre a Natale, però dopo Natale c'è il rilassamento, il dopo Natale è comunque tutto sempre più rilassato. Lo stress c'è sempre stato. Probabilmente voi vi andate da in una gastronomia che non si digerisce, io invece sono contento, mangio tutto, digerisco tutto, si fanno i giochi di società, poi si va al cinema, mi coccolo i regali che ho ricevuto al mattino, insomma, bella giornata. Cioè non c'è nessun momento di tensione? Sì, quando arriva l'ennesima cravatta mi incazzo. Sentite, date un consiglio alle nostre ascoltatrici, oltre ad andare al cinema a vedere Fuga da Reuma Park, date un consiglio concreto, che cosa non regalare ai mariti? Che cosa non regalare? Una cosa sempre molto personale, dovete conoscere i vostri mariti e conoscere i loro desideri. Ma le cravatte sembra di capire che non siano... Sono regali preconfezionati, un regalo deve essere un po' più originale per una persona che insomma... Bisogna sforzarsi a conoscere un po' il però prossimo marito. Però se non ti viene in mente, regalagli una cravatta, non sbagli mai. Buon Natale, si può dire, mentre vi penseremo seduti nelle nostre poltroncine delle sale cinematografiche, circondati da familiari che hanno fatto un triplo assaggio di tortellino, eh? Comunque, buon Natale. Natale, posso dire che mi hai dato l'idea, regalerò una cravatta a mia moglie. Non ci provare. Buon Natale Aldo, Natale, Giovanni e Giacomo, e buona domenica. Grazie. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Nessuna è perfetta. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. È Natale, abbiamo miliardi di cose da fare e ogni volta che evoco il multitasking non riesco a non pensare a quella straordinaria personificazione della multitasking donna che è rimasta nella memoria collettiva e che non potete non ricordare anche voi. Eccola. Racconti al nostro pubblico qual è la sua giornata tipo. Ma è così semplice. Beh, io mi sveglio alle 7, sì, e porto giù il cane, poi preparo la colazione per i miei bambini, sì, croissant e frittelle. Mi butto nel traffico, li porto a scuola verso le 8:30, alle 9 sono in ufficio, un paio di riunioni, alle 12:30 scendo per un po' di jogging, alle 13 torno a casa perché mio marito detesta i panini, sì, e io gli preparo un pranzo ipocalorico. Alle 14:30 sono di nuovo in ufficio, faccio un altro paio di riunioni, alle 16:30 ho il corso per manager rampanti, sì. Alle 17:30 vado a prendere i bambini e li porto a canto, danza, nuoto e catechismo. Alle 18:45 vado in un supermercato in periferia perché lì costa meno e lì io faccio la spesa. Poi torno a casa, preparo la cena per i bambini e per il cane e via, una bella favola, li metto tutti a letto. Preparo quindi la cena per mio marito che arriva sicuramente con 5 colleghi. Mi vesto da sera dopo aver fatto una bella doccia. Alle 21 accendo le candele e ricevo tutti. Beh, alle 24 l'ultimo whisky, sì, l'ultimo whisky prima di andare a letto. E prima evidentemente anche ho sparecchiato tutto e ho preparato per la colazione del mattino dopo. Ecco, verso la 1 faccio una chiacchierata con mio marito, sì, parliamo, che so, dell'ultima puntata di Beautiful per esempio, poi gli faccio un bellissimo massaggio per la cervicale e via, ci addormentiamo. Signora, per essere moglie, madre, amante, manager, come fa? Beh, io sniffo. Riconosciuta, buona domenica Angela Finocchiaro, la donna multitasking che ci ha accompagnato con questa ironica descrizione in tutti questi anni. Mica è cambiato molto da allora a oggi. Buona domenica a voi. Tu con il multitasking come sei messa? Perché il film del momento Non c'è più religione con Claudio Bisio sta andando benissimo, ma sei anche in teatro con un'altra pièce molto divertente, Calendar Girl. Insomma, tu, Angela Finocchiaro, sei la negazione di quello che sosteniamo ogni domenica, cioè che il multitasking fa male. Fa male, poi come dire, sono passati gli anni, ma alla fine la ricetta è sempre quella, non si capisce come non cambia, perché sì, in effetti ci si divide, poi quando il lunedì per esempio noi siamo a casa perché abbiamo il giorno di riposo, io preparo i passati per tutta la settimana e li congelo, per cui deve essere proprio una tossicità rispetto al multitasking. Ma credi che, complice forse la crisi economica che ormai va avanti dal 2008, i maschi un po' abbiano capito che è importante e necessario fare più cose contemporaneamente, riuscire anche a dare una mano in casa, oppure resta una prerogativa femminile quella di fare tante cose tutte insieme e con l'ambizione di farle pure bene? Noi, come dire, siamo delle virtuose di questo, siamo proprio all'apice del virtuosismo. Credo che con la crisi in realtà questa cosa stia un po' prendendo tutti, compresi i ragazzi che per esempio, allargando un po' il discorso, sì, hanno una passione, però poi si fanno un piano A e un piano B di riserva, per cui devono essere pronti magari a fare tante cose, perché chi l'ha detto che poi riusciranno a fare quello che hanno voglia di fare? Per cui ho l'impressione che diventi un po' una sorta di multiforme varietà di questo periodo, anche proprio per tenersi a galla. Nella tua esperienza di attrice di teatro e di cinema, e poi con la tua scelta personale invece di chi ha deciso di vivere fuori dalla città per avere ritmi diversi, come sei riuscita a organizzare queste due cose? Fai una tournée, poi torni in campagna e ti trasformi in gentildonna di campagna, poi torni sul set. Quante vite hai, Angela Finocchiaro? Combina abbastanza male, nel senso che per esempio appunto adesso che siamo in teatro, che è un po' come essere un po' dei pacchi postali, il lunedì io la sera arrivo a Firenze, cioè la domenica sera arrivo a Firenze, lunedì mattina appunto parto per la campagna, cambio le valigie, dopodiché ritorno a Firenze, preparo come ti dicevo qui salate di passati e poi dopo ricomincio. Diciamo che io sono sicuramente un'ingorda per quanto riguarda il lavoro, ma a mia difesa devo dire che delle tournée come quelle che sto facendo adesso non le facevo prima, nel senso che avevo cambiato proprio il modo di lavorare per stare con i miei figli, facevo meno spettacoli ogni mese e li prolungavo, diciamo, per più mesi, e quando non andavano a scuola me li portavo con me, nel senso che il desiderio di stare con loro è fortissimo, per cui trovavo il modo di farlo, ecco. Certo che con i figli che sono cresciuti, forse la tentazione di fare più cose, quindi di diventare ancora più multitasking, come dire, si fa strada nelle nostre menti malate. Però in questo momento, che c'è un'età anche, come dire, adulta fra virgolette, c'è una vocina dentro che dice: ma però anche basta, cerchiamo di diminuire un pochettino. Per cui il tentativo sarebbe quello di ammorbidire un po' i ritmi e di vedere se è chiaro che il mio lavoro mi piace moltissimo, però insomma mi piacerebbe anche avere quella figura che dicono: la mamma dov'è? C'è a casa, noi non siamo a casa ma lei è lì. Questo mi piacerebbe. In Calendar Girl ci sono tanti tipi di donne, ci sono varie generazioni, e per una buona causa decidono di fare un calendario nude. Com'è la storia? Ah, è meravigliosa, nel senso che è una storia vera, è successa alla fine degli anni 90 in Inghilterra. Avevano fatto il film Calendar Girls e noi appunto l'abbiamo riproposto a teatro, come poi sta girando anche in altri posti dell'Europa, ora stanno facendo un musical a Londra, e c'è questo momento che è senza veli, perché sono delle foto che queste signore in una provincia dello Yorkshire, in un piccolo paese, hanno deciso, e poi tra l'altro partendo da un fatto drammatico, perché era la morte di un marito di una di loro, hanno deciso di dare una risposta così forte e diversa per raccogliere dei soldi, diciamo, dove lo Stato non arriva. Loro si sono messi insieme in solidarietà per comprare un semplice divano dove i parenti aspettavano i loro cari che facevano le terapie. Di fatto queste signore hanno costruito poi un'ala dell'ospedale, perché è iniziata questa catena a fine anni 90 e anche noi la continuiamo con AIL. Certo, noi ci siamo spogliate, all'inizio non pensavamo, avevamo delle tutine di rete, degli insaccati proprio, praticamente una roba brutta, e poi abbiamo scoperto che se anche noi, come dire, nel nostro piccolo avevamo il coraggio di essere nude veramente, aveva un senso, perché queste signore l'hanno fatta a casa loro creando un bel po' di macello e noi lo potevamo anche fare sul palco, e di fatto la gente lo sente molto. E poi vabbè, è costruito con estrema grazia, noi siamo molto protette, ecco, però è molto divertente. Ma quando in tournée, appunto sul palco, si avvicina il momento in cui vi dovete spogliare tutte, non c'è un po' di imbarazzo? Come lo superate? A parte che abbiamo anche delle luci molto ruffiane, nel senso che, come dire, non è che siamo sparate sotto una luce, la regista donna ha fatto in modo che, come dire, fossimo piuttosto protette, e in più no, abbiamo superato l'imbarazzo, anche se tipo se un oggetto si sposta di qualche centimetro partono dei momenti delle saette, perché poi l'imbarazzo alla fine tutte hanno bisogno di essere veramente tutelate, e visto che è un meccanismo quasi un pit stop, nel senso che in un attimo si costruisce la foto e in questo nudo è protetto, ma è protetto veramente relativamente, in questo senso non sono stati superati gli imbarazzi. Però dal punto di vista invece della nostra coesione, poi noi abbiamo dei tecnici uomini dietro le quinte con cui comunque, diciamo, non li vogliamo scioccare più di tanto, però sembra che abbiano retto. Invece i pompieri sono girati di spalle con la faccia a muro, ovviamente, perché noi al massimo riusciamo a reggere i nostri amici tecnici. C'è venuta proprio voglia di venirvi a vedere. E nel salutarti, cara Sunday Girl di questa domenica, una domanda è d'obbligo: arriva il 2017 e col nuovo anno viene voglia di pensare a qualche buon proposito. Il tuo, sempre parlando di multitasking, qual è? Hai scoperto un trucco per non farti più fregare? No, il trucco no, se non è il caso proprio prendermi a martellate per fermarmi, però diciamo sì, la tendenza sarebbe quella di cercare di godere il più possibile delle cose con una certa calma, e quindi di cercare, come dire, di metterle in fila senza ossessivamente rincorrerle ed essere in una sorta di lavoro in corsa aperti, sempre che rotolo a 300 all'ora, per cui un po' un tentativo di soprattutto di riuscire a godere delle cose. Ma La donna perfetta, quella che prendevi in giro nel pezzo che abbiamo fatto ascoltare all'inizio, esiste ancora? Sì, vive, vive. Io proprio c'ho proprio questo specie di demonietto che vive, vive, e ogni tanto bisogna prenderla per il naso e scuoterla, che poi per me non è difficile visto che è lungo, però in realtà è un demonietto che è lì, che è proprio lì. Dillo con me, diciamolo tutto. Noi che di nessuna è perfetta abbiamo fatto appunto la bandiera, è il nostro mantra in fondo. Il multitasking è una fregatura? Il multitasking, beh sì, sì, cioè nel senso, dopo che abbiamo capito che praticamente siamo delle concertiste fantastiche di questa musica così incredibile, possiamo anche permetterci sì, di abbandonare lentamente e non suonarla proprio sempre, sì, di non suonarla così tanto, sì. Con questa immagine poetica saluto e ringrazio la nostra Sunday Girl Angela Finocchiaro. Buona domenica e naturalmente buon Natale. Un bacio a voi. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te, ciao. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Io Luigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose: la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale. E poi? E tutti i giorni, tutti convocati. Guarda, è facile. Tutti i giorni, tutti convocati. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.30 c'è anche De Luca. C'è anche De Luca, è il nostro autore, certamente. Siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni. Di tutti siamo una squadra fortissimi. Nessuna è perfetta. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, e questo è il momento di rispondere alle nostre ascoltatrici. Vi ricordo che potete scriverci a Nessuna è perfetta @radio24.it e potete commentare su Twitter usando l'hashtag Nessuna è perfetta e naturalmente anche su Facebook. E il tema della lettera di oggi è quello che stiamo affrontando dall'inizio di questa puntata. Buongiorno Maria, come ogni anno l'avvicinarsi del Natale rappresenta per me un incubo. Le corse che si aggiungono ai ritmi frenetici abituali, tanti regali da comprare, cene e pranzi da organizzare o ai quali partecipare. Non riesco a rilassarmi, mi stresso e divento sempre irritabile. Mio marito continua a dirmi che non c'è ragione, che dovrei stare tranquilla, ma la fa facile perché lui non deve fare altro che accompagnarmi forse a comprare i regali per i nostri figli e sedersi a tavola per pranzi e cene. Grazie per lo sfogo e buon Natale a lei e a tutti. Giulia. Allora, è una situazione standard e il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana, di stress da multitasking ne avrà visti di ben peggiori che quelli che si concentrano sotto Natale. Eppure è vero, professore, che sotto Natale ci si stressa di più perché si vogliono fare più cose ancora di quante se ne facciano abitualmente. Sì, è un periodo in cui si amplifica una tendenza del momento, quello di prestare troppi sensi per troppi stimoli. Qual è il problema sostanziale? È quello di una superficialità dell'informazione. Le nostre informazioni devono arrivare in profondità. Per esempio, se io guardo un'immagine sul nostro display del computer, c'è un'area del cervello che dice: ma che cos'è fisicamente questo tratto? Un altro che me lo decodifica, un'altra che mi controlla il colore, un'altra che guarda che cosa, quale ricordo viene destato in me, e da questo deriva una reazione successiva. Insomma, tutto questo richiede tempo, anche se si tratta di pochi millisecondi. Mandare in contemporanea, cosa che succede frequentemente, ancora di più in questi periodi, 1000 messaggi al nostro cervello determina una informazione superficiale che ci stanca e non ci informa. Quali sono gli effetti collaterali del sovraccarico di stimoli e di richieste sulla nostra centrale di controllo, sul nostro cervello, professore? A quello che i popoli anglosassoni chiamano la hyper arousal, l'iperveglia. Ma è un'iperveglia fittizia, perché in realtà di giorno ci sentiamo stanchi, perché logorati dall'eccesso di informazione. Di notte siamo relativamente poco distesi, quindi tesi, e conseguentemente insonni. Non solo, questa condizione può facilitare l'utilizzo presso molti giovani di smart drugs, cioè queste sostanze anche farmacologiche o bevande energizzanti che sono psicostimolanti, o un abuso di sostanze, la più vecchia, la più celebre di tutte, il caffè. Cioè da un lato ci ipersvegliamo e dall'altro poi ci lamentiamo di non riuscirci a rilassare troppo in profondità. A nessuna è perfetta, ironizziamo spesso, e l'abbiamo fatto anche durante questa puntata, sul nostro, noi siamo donne ma parliamo di superomismo, no? Perché ci sentiamo talvolta capaci di fare tutto e pretendiamo di farlo anche bene. Ma già rispondere al telefono, andare su internet per cercare qualcosa, che può essere una cosa di lavoro o una ricetta di cucina, controllare contemporaneamente la posta e mandare un sms a un'amica o al figlio per chiedergli a che ora intende presentarsi a cena, ecco, fare tutte queste cose contemporaneamente ci procura un danno alle nostre funzioni cerebrali? Beh, un danno vero e proprio è difficile affermarlo. Può provocare però una disfunzione di alcune nostre funzioni. Per esempio, quanta gente dice: dottore, sa, io non ho più memoria. Come non ho più memoria? Quante cose fai assieme? Si è giunta a delle amnesie relative, cioè a un flooding, a un inondamento del cervello di 1000 informazioni, spesso triviali, dimenticandoci che il cervello è una macchina lenta, non rapida. Lapido è il riflesso, ma il riflesso ce l'ha anche l'animale. Per lasciare sedimentare l'informazione abbiamo bisogno di fare una cosa per volta. Non è un discorso oscurantista. Il cervello col progresso non è che lo segua di pari passo, e non vuole essere oscurantista un discorso che ricordi la necessità di andare con gradualità. Per cui voler a tutti i costi adeguare il nostro cervello alla dimensione 2.0, addirittura 4.0 della vita è un po' una cretinata, posso dirlo? Io che non sono una scienziata cerco di tradurre. Può dire, è una eresia neurofisiologica e diventa una fortuna dei neurologi, mercantilmente parlando, perché sempre maggiore sono il numero delle persone bruciate, in termini ovviamente figurati, da questa sovrastimolazione che tra l'altro molte volte cerchiamo noi stessi. I nostri ragazzi stanno a pistolare col cellulare, ma noi siamo peggio, nelle sale d'attesa degli aeroporti o sui treni. Gli adulti danno il peggior esempio, hanno trovato il loro cartone animato preferito dentro il palmo di una mano. Certo. Professore, l'ultima cosa che volevo chiederle, di solito i periodi di festa dovrebbero servire a ricaricare, mentre abbiamo cominciato questa nostra conversazione proprio dicendo che invece aumenta lo stress per il tentativo di fare tante cose. Che consiglio dare agli ascoltatori di Nessuno è Perfetta dopo il picco di stress del Natale? Diciamo, da Santo Stefano in poi rallentare il più possibile? Annoiarsi persino? Beh, lei ha toccato un argomento interessantissimo. Certo, annoiarsi sarebbe una meravigliosa cosa, vorrebbe dire ascoltare se stessi. Lo stress è una testa accelerata in un corpo fermo. Invertiamo gli elementi. Il consiglio dell'attività fisica che noi diamo non è solo e non è tanto per abbassare il colesterolo, per fare in modo di essere più magri, ma fare in modo che il cervello diventi un servo di un fisico che in quel momento ha il primato e pensi alle cose basilari. Sostanzialmente incomincia ad annoiarsi e a pensare a cose molto semplici. Grazie al professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana, e naturalmente buone feste rilassanti. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Nessuna è perfetta. E dopo il professor Barbanti, che ci ha dato la dimensione scientifica del problema del fare tante cose troppo e in fretta, adesso cerchiamo anche una soluzione pratica. La cerchiamo con Sabrina Toscani, autrice di Facciamo Ordine, un libro pubblicato da Mondadori, e fondatrice di Organizzare Italia. Allora, buongiorno, buongiorno e buona domenica, Sabrina Toscani. Siamo a ridosso del Natale. Come ci si organizza per arrivarci più sereni, meno stressati? Lei è un'esperta di organizzazione. 5 consigli o anche 3, quelli che le vengono. Buongiorno intanto, buona domenica. Bisognava iniziare un po' prima, nel senso che siamo molto a ridosso del Natale, quindi sì. Ovviamente siamo già di corsa probabilmente. Sarebbe meglio iniziare prima, ma visto che mancano pochi giorni, possiamo concentrarci su quello che ci rimane da fare. Io la prima cosa che farei sarebbe sedermi, cominciare a pensare a cosa voglio fare veramente questo Natale e fare in modo che magari sia anche un po' diverso dai Natali precedenti, dove forse ci siamo stressati, abbiamo corso tanto e soprattutto magari non siamo riusciti a riposarci, cosa che a cui dovrebbe servire la vacanza. Per cui ridefinire un attimo le priorità, ecco, questa sarebbe la prima cosa che farei. Poi mi aiuterei magari con delle checklist per capire che cosa devo effettivamente fare e assolutamente fare, e lascerei stare, come dicevo, le cose superflue e quindi eliminerei un pochino quello che è di troppo, sia come impegni, ma anche, perché no, come oggetti o come regali da fare, come cose da portare a compimento. I giorni sono pochi e la focalizzazione deve essere: mi devo rilassare, soprattutto noi donne. Sabrina Toscani, qual è l'errore più comune, più difficile da correggere cercando di organizzare la propria vita privata? Stiamo pensando alle feste, ma vale anche in altre situazioni, in altre circostanze. Allora, io sposo in pieno la vostra campagna del multitasking, che è noto proprio professionalmente a fianco alle persone. Siamo abituati a fare le cose tutte assieme, no? Per riuscire a risolverle prima, salvo poi, come giustamente sottolineate voi, perdere più tempo, fare le cose in maniera con meno amore e con meno attenzione. E quindi questa è sicuramente una delle cose su cui dobbiamo appunto fermarci a riflettere e cercare di trovare una soluzione. È meglio dare la nostra attenzione, il nostro amore, diciamo, alle cose, alle persone che ci stanno attorno al 100%, per poi passare all'impegno successivo. Quindi questo lo sposo senz'altro. E poi oltre che appunto fare una cosa alla volta, è fare meno cose, quindi così come le nostre case magari sono troppo piene di urgenti, o vogliamo fare troppi regali, o la nostra giornata è troppo piena di impegni, il troppo è troppo per tutti, quindi occorre senz'altro eliminare quello che non ci sta bene, quello che non ci sta e non ci sta più, anche a forza, più di tanto non ci può stare. L'ultima cosa che voglio chiedere all'autrice di Facciamo Ordine, a Sabrina Toscani, è... apparentemente, e qui a nessuno è perfetta, ne parliamo tutte le domeniche, tutte le sante domeniche, le donne sono eccellenti organizzatrici, no? Perché riescono a fare tante cose, si occupano del lavoro, si occupano della piscina dei figli, del medico dell'anziano genitore, e poi tornano a casa e si occupano pure della casa. Gli uomini apparentemente fanno una cosa sola, di solito si occupano del lavoro. Ma è davvero così? Allora, tendenzialmente io direi di sì. Per esempio, proprio riguardo allo stress natalizio, pare che secondo uno studio americano, leggevo l'altro giorno, il 41% degli uomini riesce a rilassarsi durante le vacanze di Natale. Sì, infatti, l'abbiamo citato anche noi, esatto. Ah, sì. Ecco, solo il 25% delle donne riesce a farlo. Quindi, le statistiche alla mano è senz'altro così. Per quanto riguarda la mia esperienza. Posso confermare che le donne sono sicuramente il punto di riferimento per molte cose, forse troppe. A volte lo sono perché non possono fare altrimenti, a volte ce lo cerchiamo anche, io me compresa, nel senso che ci prendiamo forse in carico più di quello che è necessario. Questo dovremmo proprio prendere esempio dagli uomini, cominciando da questo Natale, mi viene da dire, e cercare di aumentare la percentuale delle donne che riescono a rilassarsi. Bisogna lasciare andare un po' di cose, quindi effettivamente, e anche aggiungerei imparare a delegare, cosa che forse non siamo bravissimi a fare, perché tendiamo a credere, forse anche in parte ragione, non dubito, che di fare le cose meglio. E quindi se le facciamo in prima persona, allora, probabilmente ecco, arriviamo... farle meno bene, accontentarsi, ma farle fare ad altri, no? Sì, prendiamo la cosa più saggia. Del good enough, cioè del buon abbastanza, no? Ci basta portarci a casa un 80% del risultato, se poi riusciamo a farlo fare qualcun altro, ancora meglio. Così ci liberiamo qualche prezioso minuto essenziale riuscire a farlo. Ecco, questo è il regalo per Natale, per tutte noi. Liberiamo qualche prezioso minuto. Grazie a Sabrina Toscani, autrice di Facciamo Ordine, fondatrice di Organizzare Italia, e naturalmente buon e rilassante Natale. Grazie, buon Natale a tutti, buon Natale a lei. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's been naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.